Grazie mille. Mamma mia. Ringrazio, volevo iniziare il nostro incontro con alcuni ringraziamenti sicuramente sentiti. La biblioteca Claudio Augusto che ci ha dato l'opportunità oggi di incontrarci, di presentarvi il nostro libro, al Folio Editore che ci ha dato l'opportunità di pubblicare un libro. Chi lavora nel settore sa quanto difficile trovare una casa editrice buona per un progetto editoriale, perciò per noi è stata una grande fortuna, un grande piacere di poter partire subito con il nostro primo libro con Folio Editore, che sicuramente nel settore delle guide escursionistiche in Alto Adige è il numero uno. Volevo anche ringraziare tutti gli amici, volevo dire, che sono intervenuti qui questa sera, dal mondo della stampa, del sindacato, dell'economia, vedo che, come si dice di solito, ci sono di tutti. Niente, allora, abbiamo fatto questa guida al Paradiso dei Famosi cercando di fare qualcosa di un po' nuovo, di un po' diverso. Guide escursionistiche ci sono già tante. Noi abbiamo... Non mi piace questa cosa. Abbiamo cercato di dare una nuova impronta, dando più attenzione all'aspetto culturale e storico dell'Alto Adige, cercando di presentare l'Alto Adige, questa bellissima provincia, attraverso i personaggi che sono nati e cresciuti qui, oppure che sono passati qui e hanno lasciato delle tracce nel vero senso della parola. E noi ci metteremo in 47 gite sulle tracce di questi personaggi. Il libro è strutturato geograficamente da ovest, Passo Resia, Petrarca, fino a est, San Candido, Michelbach. Oggi invece, per questa presentazione, abbiamo scelto solo alcuni capitoli per darvi un'idea, per invogliarvi soprattutto di non solo comprare il libro, ma anche uscire, andare e fare poi queste gite. Comunque abbiamo saputo, perché la guida è uscita 6 settimane fa, abbiamo saputo anche di persone che non vanno in montagna, che hanno acquistato la guida e se la leggono come un libro senza fare le gite. Nessuno è obbligato a fare le gite, comunque sicuramente è un modo in più per scoprire l'Alto Adige. Da adesso in poi, ogni tanto alzerò la mano, non è che mi dovete salutare ogni volta, semplicemente, infatti da qui non funziona. Ci spostiamo. Semplicemente il telecomando per poter passare da una slide all'altra. Come dicevo, noi abbiamo strutturato il libro geograficamente, invece oggi abbiamo scelto dei settori. Come vedrete, il primo settore è quello dei poeti e abbiamo scelto, essendo noi uno tedesco e l'altra italiana, abbiamo scelto un poeta italiano e un poeta tedesco. Allora, iniziamo subito con Francesco Petrarca, che è nato nel 1304 e che è morto nel 1374. Nel 1345 il poeta si mette in viaggio e da Parma va verso Avignone, che allora è anche sede papale e è un viaggio un po' insolito perché non può passare da altri passi proprio perché la difficile situazione politica dell'Italia di allora non lo permetteva. E, nei suoi scritti parla di aver visto la frana dei Lavini di Rovereto, ma anche di essere passato per la Val Venosta e il Passo Resia. Questo è il lago di Resia così come si presenta adesso. Negli anni 50, come sapete, è stato costruito questo bacino artificiale e il campanile che spunta, che fa capolino dal lago, è trecentesco e quindi con ogni probabilità, anche se non c'è nessuna sicurezza, Petrarca potrebbe averlo visto nel suo viaggio o almeno aver visto la costruzione di questo campanile. Racconta anche che ha ammirato il purissimo e maestoso spettacolo delle Alpi. sono parole sue che secondo noi ancora adesso possono essere ben adatte alla situazione di adesso. Questa è sempre una veduta del lago di Resia e appunto sulle tracce di Petrarca noi proponiamo una gita che parte proprio da vicino al lago di Resia. Io quasi quasi appoggerei il microfono qui se funziona bene, se no pazienza, scusate. Qui siamo in Val Lunga, è una valle laterale di Passo Resia, vicino al lago di Resia. Una valle che devo dire io da tantissimi anni che vivo in Alto Adige non ero mai passato perché è un po' lontana, però vale assolutamente la pena di andarci perché una valle incontaminata come poche rimaste in Alto Adige. Come vedete anche dalle foto, il tempo non era bello, come devo dire tra l'altro per il 90% delle gite che abbiamo fatto l'anno scorso abbiamo avuto una sfortuna con il tempo. Comunque sappiate che è sicuramente una gita facile, bella. Si sale con la funivia, con una seggiovia sul Mars Even e poi in un lungo giro lungo gli alpeggi e lungo questa valle, la Val Lunga, lungo il rio Carlino, torniamo alla macchina. Adesso ho sbagliato. Questo è un altro squarcio e come vedete qui non. Dicevo, io al lago Carlino e vedete che è veramente una bella valle verde che vale la pena di essere visitata. La Magra Melaga, tutti i prodotti del Maso, dove ci possiamo fermare con una sosta. Altra veduta della valle. E qui torniamo poi verso il punto di partenza. Come consiglio, durante la gita consigliamo poi dal paese di Resia di andare a vedere le sorgenti dell'Adige, che con ogni probabilità anche Petrarca durante il suo viaggio potrebbe aver visto già all'epoca. Il secondo personaggio che noi trattiamo è Goethe e qui lo vediamo raffigurato, nella campagna romana durante uno dei suoi numerosi soggiorni in Italia. In viaggio in Italia scrive, che è giunto a Bolzano con un bel sole allegro e c'è stato nel 1786. Sembra quasi un turista germanico di oggi, proprio entusiasta e felicissimo di poter essere in Italia. Queste citazioni sono tutte tratte da Viaggio in Italia. Scrive, se qualcuno che abitasse nel sud o ne venisse potesse intendere l'incanto che io qui provo, mi giudicherebbe molto puerile. E qui vediamo infatti che noi forse sottovalutiamo perché viviamo qui sempre, però il bel tempo e la natura sono veramente più unici che rari. E noi questa volta ci mettiamo in bici e facciamo una gita lungo l'Adige, Bassa Atesina, che sicuramente conoscete tutti, e poi vi racconterò le tappe. Infatti, pedalando sulle tracce della carrozza del poeta tedesco, proponiamo un facile percorso in bicicletta in Bassa Atesina, nella zona del lago di Caldaro. Probabilmente il tempo è stato così bello, una delle rare volte che noi abbiamo trovato bel tempo, quando Goethe era in viaggio verso sud. Così scrive Goethe, da Bolzano a Trento si procede per 9 miglia, in una valle fertile e sempre più fertile. Tutto ciò che tenta di vegetare sulle montagne qui ha già maggior vigore e vitalità. Il sole è caldo e si può credere nuovamente a un Dio. Una frase sicuramente molto suggestiva che rende conto dei sentimenti di Goethe in quell'occasione. Qui scendiamo lungo l'Adige e siamo già nei pressi della Leinburg e tra breve saremo a Oran. Qui invece Goethe parla della piazza delle erbe e racconta: la vista di tutti quei volti di mercanti mi piacque. Sulla piazza erano sedute le fruttivendole, nelle loro ceste rotonde e piatte, larghe più di 4 piedi, le pesche erano ben allineate, in modo da non schiacciarsi, così pure le pere. Effettivamente qui parliamo di piazza delle erbe a Bolzano, che tutt'oggi è in funzione. Invece questo racconto risale a più di 200 anni fa. Qui siamo a Klukam, lato est del lago di Kaldaro. Chi visita di solito Kretlamsee, qui sicuramente c'è un po' più di calma. Le vigne e frutteti così tipici della vasta tesina dell'Oltre Adige c'erano già ai tempi di Goethe. E qui adesso torniamo lungo una ciclabile e su strade forestali di campagna, saliamo verso Kaldaro per poi tornare a Bolzano. E qua ci sono descrizioni molto belle di Goethe, sempre della natura e soprattutto di queste viti, di gelsi, meli e peri che le avevano lasciato semplicemente esterrefatto. Come sapete, la ciclabile dell'Oltre Adige percorre lungo la vecchia ferrovia, una ciclabile molto suggestiva perché si passa anche per le gallerie che oggi sono ben illuminate, e soprattutto per le famigliole, per i bambini, è un grande divertimento. Qui ormai siamo quasi tornati, Castel Firmiano, che vale sicuramente anche una visita. Abbiamo comunque dedicato un capitolo a Castel Firmiano e a Magnago, e con un'altra gita molto più breve, comunque volendo uno potrebbe fare tappa anche qui. Andiamo avanti con un'altra categoria, gli artisti musicisti, e adesso parleremo di Dürer e di Mahler. Questo è Dürer, e si vede anche il particolare del suo monogramma, la A con inclusa la D. E la gita che noi proponiamo, la gita che noi proponiamo è a Laghetti di Enya, e Dürer dopo 3 mesi che era sposato a 23 anni, per la prima volta vuole andare in Italia, l'Italia di Bellini, e si ferma a Chiusa dove realizza dei disegni che poi gli serviranno per l'incisione La grande fortuna. E poi comunque prosegue lungo la Val d'Adige. In questa immagine potete vedere la grande fortuna, non è una risoluzione buona, ma in questo angolo è rappresentata la cittadina di Chiusa che lui, quando era stato in Italia la prima volta, aveva già raffigurato su alcuni schizzi. E qui adesso ci mettiamo in cammino lungo il sentiero di Dürer, che inizia in bassa Tesina e porta in Trentino, e che si può fare a tappe, si possono fare anche solo alcuni pezzi. Hanno scelto come segnaletica il famoso monogramma di Albrecht Dürer che abbiamo prima visto sul suo autoritratto, la A con la D di Dürer sotto la chiusa. E siamo nel 1494, lui, giunto nei pressi di Enya, deve lasciare poi la Valle d'Adige perché c'è una fortissima alluvione. A quel tempo l'Adige non ha gli argini e per cui succede spesso che ci sono delle inondazioni, quindi i viaggiatori continuano il viaggio per evitare impaludamenti verso il Monte Corno, e anche il sentiero del Dürer sale appunto su Monte Corno. Perciò ci mettiamo nel vero senso della parola sulle tracce di Dürer. Volevo spiegare un attimo come abbiamo selezionato le gite. Ogni tanto era facile, per esempio con Dürer, che proprio ha fatto questo percorso per andare verso sud, o per Andreas Hofer, per esempio. Andreas Hofer, abbiamo scelto il sentiero che porta dal Sandwirt, l'osteria di sua proprietà, in Batassia, che porta la falda a una maiga in alta quota, dove lui si era nascosto prima poi di essere catturato dai francesi e fucilato. E noi facciamo proprio questo sentiero che lui fece scappando dai francesi. Non sempre è stato certamente possibile seguire le orme, allora abbiamo cercato o che ci sia un monumento a lui dedicato, come vedremo dopo, oppure una zona a lui molto cara, a questo personaggio. Ma man mano adesso poi vi spiegherò. Qui saliamo verso Pochi di Salorno, questo è un vecchio maso, e qui dietro si vede anche la vecchia strada, dove si possono vedere anche i solchi dei carri, è proprio una strada antica. Oltrepassando il ponte romano, che poi non è romano, è soltanto un po' antico, si arriva lungo una gola, si esce dalla valle e si arriva a Pochi di Salorno. E a Pochi di Salorno le consigliamo di andare a vedere una galleria a cielo aperto, che è il giardino di scultura dell'artista Sieglinde Taz Borgogno. È molto interessante, qui vediamo proprio l'artista con una delle sue creature, come ama chiamarle, che sono queste sculture in prevalenza in bronzo e soprattutto soggetti femminili. È a cielo aperto con un panorama molto bello, non si paga ingresso per entrare, e è molto suggestivo, da un punto panoramico, come si vede in questa diapositiva. Quindi queste figure che sono in mezzo al bosco e che in qualche modo dominano la vallata. Adesso invece scendiamo da Pochi di Salorno, torniamo giù a valle. Ci sono alcuni punti panoramici belli. Passiamo, arrivati a Salorno, ci spostiamo alla Bianca. No, per questa presentazione volevamo avere anche Gustav Mahler, nato nel 1860 e morto nel 1911. Ha soggiornato più volte a Dobbiaco in quanto aveva dei problemi di salute e il medico le aveva consigliato di fare camminate in montagna, e lui è stato per 3 estati a Dobbiaco, e da qui parte la nostra passeggiata. Qui è una facilissima passeggiata che non possiamo definire gita, perché è proprio una passeggiata di un'oretta che da Dobbiaco porta alla Malerstube, che oggi si chiama così, che era un vecchio maso, antico maso, dove lui soggiornò più volte. Questo invece è il Gran Hotel Dobbiaco, che rappresenta un po' l'epoca di massimo splendore di questo centro turistico. E si capiva che stava arrivando Mahler di anno in anno, perché prima del suo arrivo si faceva precedere sempre da 3 pianoforti. L'appartamento di Mahler si può visitare, è all'interno di un maso e hanno per fortuna mantenuto anche tutto l'arredamento come era allora. Questo è il maso della famiglia Trenke. Vedete, sempre pioggia. E una targhetta ricorda appunto i soggiorni del grande musicista. Questi sono gli interni. Scusate. Non sono stati cambiati, sono rimasti proprio così come quando Mahler soggiornò lì. Il tappeto l'hanno aggiunto loro. Particolarmente il pianoforte. E questo è proprio accanto al maso, c'è questo parco di fauna selvatica, che per le famiglie è molto molto bello, perché ci sono tantissimi animali da vedere. Ma non soltanto quello, perché Mahler richiedeva il silenzio assoluto quando lavorava. Infatti a Dobbiaco ha scritto alcune delle sue opere più importanti: Das Lied von der Erde, la 9ª Sinfonia e la 10ª Sinfonia, che è rimasta incompiuta. E lui, mentre era dubbiacco, scriveva più volte anche a sua moglie Alma e si lamentava in continuazione del chiasso che c'era, ce l'aveva soprattutto con il cane e anche con i bambini e addirittura con i contadini che lavoravano nei campi. Fatto sta che poi la famiglia Trenker che lo ospitava gli ha costruito, poco distante dal Maso, una casetta di composizione, come già comunque aveva anche nel Salisburghese, una compagnia Häuschen, in legno, immersa nel verde. E si può vedere, si può entrare, all'interno ci sono delle fotografie di Mahler, lo raffigurano durante i suoi soggiorni a Dubiaco e in cammino nelle montagne. E si ricorda appunto che lui qui ha composto la decima sinfonia e anche le altre due. Andiamo avanti con altri personaggi, a seguire ci saranno il cancelliere Bismarck, i prigionieri speciali delle SS, Freud e Christo Mannos. E li abbiamo scelti perché ognuno di questi personaggi nasconde o comunque ha da raccontare una storia interessante. Otto von Bismarck, nato nel 1815 e morto nel 1898. Potevamo quasi avere un cancelliere sposato con un'altoatesina, perché lui spesso soggiornava in Val d'Ultimo e si era anche innamorato di una ragazza altoatesina di nome Josefa e quindi sì, era un illustre ospite della vallata e poco ci è mancato che si sposasse anche da noi. Questa è Josefa, la ragazza di cui si era innamorato e a fianco vedete suo padre che era anche il gestore dei bagni. Ricordatevi lo sguardo perché poi capirete perché. A 25 anni Bismarck si reca a Bagni di Mezzo e si innamora di questa ragazza che era figlia appunto del gestore dei bagni e di Ursula Ladurner che è imparentata con Anna Ladurner che è moglie di Andreas Hofer. Da noi in Alto Adige sono tutti imparentati. Comunque viene rifiutato Bismarck in quanto lui è protestante mentre la famiglia dei gestori dei bagni è cattolica e quindi il padre di Josefa rifiuta Bismarck nel modo più categorico possibile. Perciò lo sguardo serio di prima. Questo è Bagni di Mezzo, così in una raffigurazione dell'epoca, era proprio una rinomata località di cura e illustri ospiti sono stati a soggiornare qui, perché, soprattutto per le proprietà curative dell'acqua. Adesso purtroppo Bagni di Mezzo si può ancora andare a visitare, ma è completamente caduta in disuso e abbandonata. È un peccato perché comunque è un posto ricco di fascino che si potrebbe in qualche modo riuscire a sistemare. Invece è proprio decadente. Si ricorda appunto che dal 1840 fino al 43 Bismarck ha soggiornato qui per diversi mesi. Non solo Bismarck, ci sono stati anche Sissi, il pittore Franz de Frecker e i fratelli Mann, che sono tutti e due scrittori. Questo è un particolare di una vasca che veniva utilizzata per immergersi, completamente ricoperta dalla vegetazione. Abbiamo cercato di far partire la gita da Bagni di Mezzo, ma non è stato possibile perché non c'erano gite interessanti, anche perché i sentieri non erano tenuti in modo adeguato. Una piccola valle laterale, vi consigliamo comunque di fare un salto lì in macchina se siete in Val d'Ultimo per vedere questi bagni. Però un ramo laterale della Val d'Ultimo un po' dimenticato e per questo anche ricaduto. Perciò non partiamo da Bagni di Mezzo, abbiamo fatto una piccola eccezione, comunque abbiamo trovato l'aggancio giusto per la nostra gita. Il Thai Museum della Val d'Ultimo, il museo etnografico della Val d'Ultimo, che questa è una ex scuola, un edificio di legno di alcune centinaia di anni fa. La cosa curiosa è che l'intera casetta è stata spostata per far spazio a un garage sotterraneo. Qui a sinistra, a 10 metri, si trova un garage sotterraneo. Hanno completamente smontato la casetta e l'hanno ricostruita 10 metri più in là. E adesso ospita questo museo. E il museo, diciamo che il punto forte del museo sono le scarpette di montagna, scusi, io avere contatto visivo. Le scarpette di montagna dell'imperatrice Sissi, queste non sono le scarpette della Sissi, queste sono scarpette utilizzate d'inverno per le mucche per portarle dal toro sui sentieri ghiacciati di alta montagna per non rischiare, per non far scivolare le mucche, le mettevano queste scarpette, ci sono quattro, non solo due, e così venivano portate dal toro. Questi sono anche i particolari del museo, è molto piccolo ma veramente grazioso, assolutamente merita una visita. La gita è una gita veramente incantevole, è lungo l'Ultner Höfeweg, il sentiero dei massi della Valgultimo. Partiamo da San Nicolò, infatti proprio dal punto di partenza del museo, proprio dal museo, e arriviamo a Santa Gertrude. Questi sono gli squarci che si offrono, non è per niente faticoso, c'è un sali scendi piacevolissimo, soprattutto ci sono questi vecchi masi che solo in Valgultimo possiamo ancora trovare. Effettivamente quando hanno girato l'ultimo film di Andreas Hofer, cercando una zona incontaminata con vecchi masi, dove non si vedessero tralicci e alberghi, impianti di risalita, hanno infatti scelto la Valgultimo, perciò l'ultimo film di Andreas Hofer è stato girato in Valgultimo. Come vedete, bellissimi masi. E passiamo ai larici millenari, che forse tutti voi conoscerete. Il più alto è alto 36 metri e mezzo, e il più largo, il più ciccio, 8 metri e 30. E uno ha 2000 anelli, vuol dire 2000 anni di vita almeno. Eccoli. Uno la è stato. Non rende. La foto non rende, sono altissimi. Uno ha sofferto un po' per un fulmine tempo fa, ma è ancora in salute. E questo è un piccolo tarlo che però fa pochi danni al legno. Okay. Andiamo avanti con i prossimi personaggi, parliamo adesso dei prigionieri speciali. E nella primavera del 1945 a Villa Bassa in Busteria c'erano 139 Sonderhäftling, che sono appunto i prigionieri speciali ex detenuti del lager di Buchenwald, Mauthausen e Flossenbürg. Una breve parentesi, noi facciamo come gita il giro del lago di Braies, una gita stranota però bellissima, perché sicuramente il lago di Braies è uno dei laghi più belli dell'arco alpino, soprattutto perché il suo colore. Questa foto l'abbiamo fatta dalla coda del Becco, che vi consigliamo, chi si sente un po' allenato, un po' preparato, di salire fin qui. È lunga, però è per niente difficile, e si gode un panorama bellissimo. Verso nord il lago di Braies, verso il sud le tre cime di Lavaredo. E noi partiamo da qui, dove c'è il Grand Hotel, e facciamo il giro. E facciamo una piccola deviazione in Val Foresta, che poi vi spiegherò. Tra i prigionieri speciali ci sono Mario Badoglio, che è figlio del maresciallo Pietro Badoglio, Sante Garibaldi, imparentato con Giuseppe Garibaldi, e il principe Filippo d'Assia, che è marito di Mafalda, figlia del re d'Italia. Le SS consideravano questi prigionieri come merci di scambio per trattare con gli alleati, questo almeno nelle loro intenzioni. Vengono poi liberati dai soldati della Wehrmacht e vengono portati all'albergo Lago di Braies. Questa è una foto d'epoca e si vedono tutti i personaggi speciali insieme alla proprietaria dell'albergo, che è questa signora centrale. E tra i prigionieri c'era anche l'ex cancelliere austriaco Schuschnigg, per esempio, o anche un vescovo francese. Provenivano da 17 paesi, erano personaggi soprattutto politici molto, molto in vista. La proprietaria dell'albergo si chiamava Emma Heiss Hellensteiner e li accoglie proprio a braccia aperte, fa in modo che si possano riprendere dai maltrattamenti e li tratta proprio come ospiti di riguardo. Dopo essere liberati, molti di loro, questa è proprio la proprietaria dell'albergo, Emma, e molti di loro continuano a mantenere un rapporto epistolare con lei e rimane appunto nel cuore a tutti loro, anche se pochi giorni, questo periodo trascorso al lago di Braies, in cui erano di nuovo liberi e potevano quindi ritornare nel loro paese d'origine. Noi adesso siamo sul lago. La foto di prima era stata scattata da qua. Noi che stiamo in bar, in bus, facciamo qui il giro, alcuni squarci del lago. Chi proprio non ha voglia di camminare o chi è un po' più romantico può anche scegliere una di queste barchette di legno, remi e farsi un giretto sul lago. Qui l'albergo. D'estate, in alta stagione, il sentiero è sicuramente molto molto frequentato dai turisti perché si arriva in pullman, è una meta proprio prediletta. Però basta già arrivare prima di settembre e non si trova anima viva, sicuramente vale la pena evitare, diciamo, Ferragosto. All'interno dell'albergo c'è una mostra fotografica dove si possono vedere appunto i prigionieri speciali e ci sono anche varie didascalie che spiegano un po' quel particolare periodo storico. L'acqua del lago è ghiacciata e ci sono comunque molte persone che fanno comunque il bagno. Ma è freddissima, è uno dei laghi più freddi. Avevo detto prima che facciamo una breve deviazione in Val Foresta, dove c'è questa piccola e simpatica malga. Il prossimo personaggio è Sigmund Freud.